Beh, intanto per me era un amico, perché poi lui mi chiamava fratello affettuosamente. Io l'ho conosciuto oltre 35 anni fa. Lui presentava Sepulveda in un albergo di Modena e da lì non ci siamo più lasciati. Io ogni volta che usciva un suo libro o una sua rivista lo invitavo e tra i mille impegni trovava sempre uno spazio per San Giorgio di Piano. In un piccolo comune della provincia, come veniva accolto un giornalista che appunto conosceva i grandi della terra? Beh, chiaramente con grande attenzione, con grande affetto, con grande curiosità, anche perché lui è stato un giornalista, sì, che ha intervistato i grandi della terra, ma è stato un giornalista fuori dal coro, in quanto non era disposto poi a presentare notizie preconfezionate o suggerite da questo o da quel politico. Poi la RAI, dopo aver usufruito della sua professionalità in tante trasmissioni, l'ha poi esiliato, ma lui ha avuto un'altra vita, nel senso che è stato anche editore di se stesso e ha continuato a raccontare il mondo, il sud del mondo, come una parte del sud del mondo, come l'America Latina, appunto senza filtri. E infatti questa è una delle peculiarità, è una cosa che anche vi accomunava, l'amore per l'America Latina, l'amore per Cuba. Che importanza ha avuto, visto che altrimenti le narrazioni che parlavano di Cuba, dell'America Latina in Italia, erano molto condizionate magari anche dagli Stati Uniti? Che importanza ha avuto Mina in questo? Beh, certamente lui, avendo avuto un contatto con il mondo e l'intelligenza latinoamericana, aveva senza filtri conoscenza di un mondo che era un mondo sotto pressione, se si pensa ai regimi che hanno tenuto sotto il tallone di ferro interi paesi. Però lui ha sempre dato spazio all'intelligenza, appunto agli intellettuali che raccontavano i paesi veramente com'erano, proprio fuori dal coro. E io, attraverso di lui, il nostro comune ha avuto anche l'occasione di avere altri giornalisti che lavoravano ed avevano a cuore l'America Latina, come Ettore Masina, Italo Moretti, che è stato anche un direttore della RAI, anche lui poi esiliato con l'avvento del craxismo, furono esiliati un po' tutti, diciamo così, gli indipendenti. Il giornalismo oggi in Italia cosa perde con la scomparsa di Gianni Mina? Sicuramente perde una persona di una rettitudine unica, un giornalista di quelli orgogliosi del proprio mestiere, che prima di diffondere le notizie si accertava e le verificava, perché diceva che era un diritto per l'informazione del lettore, e quindi aveva una visione del mondo, poi una visione libera. Non a caso lui è riuscito ad intervistare i grandi della terra. Quindi io ero a Roma proprio la settimana scorsa e pensavo di incontrarlo, ma non sono riuscito a contattarlo perché probabilmente era già ricoverato in ospedale. Insomma, ho conosciuto la moglie, che è venuta con lui qui. Lui arrivava in treno, dormiva in un B&B e ripartiva la mattina dopo, tranquillo e sereno. È stato un amico per San Giorgio di Piano. Lo hanno conosciuto nel bar, l'hanno conosciuto nelle trattorie nostre, l'hanno conosciuto nella sala del consiglio comunale dove lui teneva le conferenze. Allora perdo un po' un fratello anch'io, insomma. Cosa potrei dirgli oggi? Grazie di essere passato anche di qua, in un piccolo comune, e fai buon viaggio, fratello.